www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa. Attaccata. Già. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce. Mentre nella fabbrica di polli è stato indetto il coprifuoco, Kappa e Drago speculano sulla guerra civile. Drago, stai giù, stai giù! Sì, sto giù, però dai, il colore delle piume. Cioè, basta quello per far succedere questi casini. Ma pensa un po'. Drago, arancioni contro marroni, come all'asilo, dai. Sì, e oltretutto arancione e marrone sono lo stesso colore, quindi mi chiedo io cosa stanno facendo. Le guerre civili sono tutte uguali, i colori sembrano diversi, ma in realtà sono identici. Come sei profondo. Sì, ma stai giù, L'importante è che sia profonda la trincea. Ma lo sbattimento. Pollo. È tutto buio. Una puzza della Madonna. E poi, ma cosa c'è per terra? Ci sei tu. Che schifo. Allora, cosa fai qui nella trincea, scusa? Vabbè, cosa volete che faccia? Che stai lì come un bamba a prendermi le bombe come quei polli lì? Un marrone come te adesso rischia di brutto. Già. Ma quale marrone? Non sei marrone dalla nascita. Marrone io? Ma siete fuori? Ma, scusa un attimo, fammi vedere. Hai da cena, Drago? Ma sei tornato, ma, bianco! Ma tornato chi? Vabbè, soccorso. Ma siete di gandula o cosa? Di gandula. Ma io qui, da che mondo è mondo, sono sempre stato bianco, Ma aspetta però, fammi vedere bene. Aia! Tieni acceso. Aia, ma no! Aia, ecco qua! Uè. Al tuo coiffeur è scappata una penna marrone, meglio se la levi di mezzo, sennò qui una bomba in culo, non te la risparmia nessuno. È una penna marrone? Che strano. Appena qui si è messa male tra marrone e arancione, tu sei tornato bianco perché così nessuno ti poteva far del male. Non sono mica scemo io. Sì, vabbè. Gli svizzeri. Però noi ti denunceremo agli arancioni come doppiamente voltagabbana. Da bianco a marrone e da marrone di nuovo bianco. Dai, che vergogna. Ma cosa c'entra? Anche gli arancioni prima erano bianchi, Vabbè, vedremo cosa dirà il tribunale indipendente degli arancioni e poi. Io sotto processo mica ci voglio andare, Come ti tocca. E poi la pena me l'avete staccata? E chi lo dice che la mia, E se fosse vostra? Come no? Sì, ma Drago, anche tu, perché gliel'hai staccato? Adesso non è più processabile. Drago, ma tu sei un bamba. Vabbè, dai, l'esame del DNA proverà che la penna è tua. Sì, ma tu sai quanto costa un esame del DNA? Non so. E te lo paghi tu, Ehi, Pollo, l'esame del DNA ha chiaramente provato che la penna marrone è la tua. Incredible bugiardo. Fai presto dire bugiardo tu, Con quella testa senza cresta e tutte quelle penne arancioni, Incredible maleducato. Guarda che se voi non vi mettevate a fare la guerra contro i marroni, io sarei rimasto marrone, Ma la guerra è un fatto naturale, Pollo, che non si può evitare. Ma cambiare pelle è un peccato di lealtà che Krishna non vede di buon occhio. Ma che Krishna è Krishna? No, io conosco i Krishna. E voi li conoscete, i Krishna? I Krishna? Ma sì, quel gruppo New Wave italiano, no? Che ha avuto successo con quella canzone Many Kisses. Ma non ve la ricordate? Ma sì, no? Many, many, many kisses, many kisses, many, many kisses, many kisses. Many, incredible rottura di cow. Portatelo via, è condannato a 3 giorni di digiuno e alla somministrazione continua di acqua tiepida, non per via orale. La corte dell'Incredible Tribunale ha deciso. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Ramaya, Bhupu Ramaya, Abantu Ramaya, Miranda. La fabbrica di polli. Set to canon. You're in the wrong place here. Sweet to canon. Caught in captivity. You look like Frank Delano. The day Pearl Harbor was attacked. Tell me, do you feel so bad while your family's left alone and everyone is sad since you've gone? Just tell me, do you feel so strange when you look around yourself and nobody's like you? You're a bird, you are a plane, sad to cuddle, sad to cuddle, what a shame. Ma intanto, nei disertati sotterranei della fabbrica di polli, dove l'aria è spessa come una bistecca alla fiorentina, avvengono cose che nessun cervello umano potrebbe riuscire a comprendere. Cose come le avventure di la cavia da laboratorio. Ma solo perché ho fatto la tinta marrone e non quella arancione, che poi tanto se la facevo arancione poi mi beccavano i marroni e facevo la stessa fine, ma forse facevo meglio a rimanere bianco, come i centristi, sempre bianchi quelli lì, i centristi bianchi da sempre, ma loro fanno bene a rimanere bianchi, no? Tanto poi diventano tutti bianchi invecchiando, no? Non dico mica una novità, ma anch'io la mia età, poi cosa mi sono messo in testa? Di diventare marrone? Ma è la mezza età che porta a fare questi errori. Però adesso sono in sbattimento, qui dentro, senza cibo, sti maledetti salutisti. Loro mangiano solo becchime vegetale certificato e biologico. Ma almeno mi dessero quello, che farà schifo, ma almeno nutre, no? E invece no, mi devo purificare, dicono. Mi hanno detto, tu hai mangiato per troppi anni cadaveri di altri animali. Sì, perché loro si esprimono così, I cadaveri degli altri animali. Ma che ognuno faccia un po' come vuole, no? No, perché adesso a uno fa schifo la carne, allora tutti devono dire che la carne fa schifo. Ma a me la carne piace, I grilli, i mosconi, le coccinelle, le formicone quelle belle grosse, e anche i calabroni, no, a noi non pongono mica, Non fanno mica in tempo. Gli arriva una beccata proprio qua dietro il collo, Aia! E qui mi richiamano all'ordine, Non devo nemmeno pensare alla carne, perché devo meditare. Ma come si fa a meditare? Madonna mia, che sbattimento. Che sbattimento. Che cosa succederà adesso? La guerra tra marroni e arancioni continuerà a oltranza, trasformando la fabbrica in una Belfast anni 70 o una Sarajevo anni 90? In ogni caso, il seguito della storia è domani a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo belligerante allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. No more.